Ehi! Ehi! Sei un sognatore? Sì. Ormai non se ne vedono quasi più. È un periodo duro per i sognatori. Dicono che il sogno è morto, che nessuno sogna più. Ma non è morto, è stato solo dimenticato. Rimosso dal nostro linguaggio. Nessuno lo insegna, così nessuno sa che esiste. Il sognatore è confinato nell'oscurità. Io cerco di cambiare tutto questo e spero anche tu. Sognando, ogni giorno. Sognando con le mani, sognando con la mente. Il nostro pianeta deve affrontare i problemi enormi di sempre. Di sempre. Perciò non annoiarti mai. Questo è in assoluto il periodo più eccitante in cui possiamo trovarci a vivere. Ed è soltanto l'inizio. Ci hanno provato anche questa volta i poteri forti a non farci andare in onda. Ci hanno provato e non ci sono riusciti. Rettiliani. Forse. Mantidi. Forse. Grigi. Ma noi comunque siamo qui. Allora, stiamo provando tutto, perché niente, è un accrocchio di nuovo, però sembra che tutto funzioni, grazie a chi ci ha supportato, il nostro apparato tecnico informatico che ha fatto sì che non riuscissero gli attacchi hacker interstellari di nuovo a metterci fuori uso. Siamo finalmente in diretta con Lezioni Universali di Esistenza, questa è la 10ª, 11ª puntata. Caro maestro, ci siamo. E speriamo che ci siate anche voi all'ascolto, se riuscite a sentirci. Se tutto funziona bene, scrivetecelo, se vi va, su direttawombat.vado.li, direttawombat.vado.li. Non temiamo gli attacchi hacker. Soprattutto se sono di natura siderale, interstellare. Perché come in ogni altro episodio, puntata, anche in questa abbiamo un ospite d'eccezione. È così, è così. Che emozione. Va bene, grazie. Intanto allora, ci state scrivendo. C'è chi ci scrive che ci ascolta in AM, quindi lunga vita alle frequenze medie, alle onde medie. E anche, ma questi sogni bagnati, state andando alla grande, hashtag mutande, slash mutande, come si chiama quella cosa? Cancelletto mutande. Grazie, viva, grazie. Conosciuti. Sì, sì, forza ragazzi, ora funziona tutto, ci scrivono un sacco di persone, che bello. Allora, caro ospite, ci siamo, Lezioni Universali di Esistenza, al suo massimo, va bene, evviva. È il momento di presentarlo. Sì, non ha funzionato la sigla, non ha funzionato niente, ma funziona il nostro entusiasmo. Quindi mi autopresento? Sì, certo. Dopo un anno di assenza dalle onde mediocri di Radio Wombat, torna Glanda de Lago. Glandacina. Sì, maestro, devi parlare un po' più vicino al microfono. Glande Lago. Lago, Lago. È con noi. È tornato alla 10ª, 11ª, non sappiamo niente. Siamo sicuramente in seconda cifra puntata di Lezioni Universali di Esistenza per parlare con noi di cosa, mio caro? Beh, andiamo nel mondo dei sogni. Eccomi. Eccolo, Sandman. Tu sei un sogno o un sognatore? Questa è un'ottima domanda. Entrambi, direi. A mio modo cerco di essere un inguaribile sognatore e un sogno solo per i giusti. Grazie caro maestro. Allora va bene, dai, mettiamo la sintesi di due puntate fa. Di cosa parlavamo? Non me lo ricordo, eravamo col DUSA, col Dipartimento Universale di Esistenza, la mettiamo. Eccomi, sono qui. Io sono un professore del DUSA, specificamente il professore di teologia solaristica. Sappiamo che la solaristica è una disciplina ampollosa, enorme, gigantesca, che ha un sacco di approcci diversi. Il mio è specificamente quello teologico. Sono un dottorando dell'illustre professore qui presente. Intelligenze aliene e vita nel cosmo e come interagisce. Si tratta di un pianeta ricoperto da un denso oceano di una materia traslucida, in grado appunto di deformarsi e di trasformarsi in maniere apparentemente bizzarre. Bene, ora giusto per dare un attimo una spruzzata di geografia, Solaris dove sarebbe collocato? Nella nostra galassia, in un'altra galassia, nel nostro sistema solare, in un altro sistema solare, nel nostro universo? Nella nostra galassia. Ma non nel nostro sistema solare. Fa parte di un sistema solare composto da due stelle binarie. Ecco. Certo. Guardi, mi permetto di fare una piccola glossa al mio dottorando, ossia che Solaris inteso strettamente, in senso strettamente ontologico, chiaramente non si trova sul nostro piano di realtà. Il Dipartimento di Ufologia e Scienze Elenistiche sta proprio per far uscire i bandi per viaggi di studio su Arrakis, per analizzare e studiare la biologia dei vermi, delle sabbie nel loro ecosistema. Può anche essere utile in un'ottica di antropologia aliena per studiare la società di Fremen. Certo. Avete mai sentito parlare del basilisco di Roku? Ah! Il proselitismo salva dalla furia del basilisco di Roku. Io sono molto combattuto davanti a questa teoria, perché ammettere il fatto che siamo all'interno di una simulazione dovrebbe portarmi ad ammettere il fatto che questa non è la versione migliore di me. Uno dei pionieri della missilistica, della corsa allo spazio e anche degli studi sull'intelligenza extraterrestre, che è il russo Tsiolkovsky, ha proprio detto che la Terra è la culla dell'umanità, però nessuno è nato per vivere tutta la vita in una culla. Perché uno pensa magari, dove, a Roncobilaccio, ma che cazzo dite? A me mi sembra un modo di pensare questo, però, molto da esseri umani. E poteri forti? Fortissimi. Fortissimo. Boom. Perché vorrei fare questa domanda, nel senso, ma quindi, entrando subito nel vivo dell'argomento, senza permetterle alcuna introduzione, possono le intelligenze artificiali essere allo stesso tempo intelligenze aliene? Ci siamo di nuovo. Allora, ci scrivete: evviva i sognatori, evviva i sognatori, condividiamo senz'altro. No, il maestro forse no, invece. I sognatori sono una parte fondamentale di quella che è questa simulazione. Ci aiutano a immaginare altri mondi, non per forza migliori, ma comunque diversi. Diventando dei sognatori, forse possiamo diventare delle persone migliori. Sicuramente saranno delle esperienze indimenticabili. Sicuramente più consapevoli anche. Più consapevoli? Infatti, sono qui per parlare di sogni, ma in realtà di una nicchietta un po' più specifica, cioè di onironautica. Wow! Non temiamo niente, e quindi perfetto, introducici a questo profondo tema, l'onironautica. Allora, in introduzione ho messo una citazione da un film che io avevo visto, che è quello che mi ha portato a sapere qualche cosa, non si è sentita, era tutto rotto, poi la rimetterò nel podcast, di Waking Life. È quella roba lì. Di Linklater. Che... di Richard Linklater. È il regista. Sì. Ecco, certo, io sono un cazzo. Sì. Cioè, grazie. Che quello è esattamente un'ironautica, nel senso che è un sogno lucido. Io non l'ho visto questo film. No. Ah, ci sono film migliori di un'ironautica. Tipo ieri, per prepararmi un po' alla puntata, ho rivisto Paprika. Di Tinto Brass? No. l'ho pensato anch'io, maestro, però l'ho fatto. Si chiama Paprika, anche quello? No, è un film d'animazione giapponese. Okay. Ah, ho capito qual è, certo, ma certo, sì, chiaro, Paprika, un film d'animazione giapponese, ok. Tutto annettato dentro, certo, dentro i sogni, in cui, come in Waking Life, si muove dentro dei sogni e segue l'andamento dei sogni con degli elementi di sogno cosciente, cioè onironautica, cioè essere presente, saper di star sognando mentre stai sognando. Quindi prendiamola da qui. La questione dei sogni non è sconosciuta a nessuno, tutti sappiamo cosa sono i sogni e le speculazioni novecentesche attorno a queste. Qua stiamo parlando della possibilità di intervenire attivamente all'interno dei sogni. È questa l'onironautica? O un'esplorazione in modo generale? Può essere questo, cioè tendenzialmente è l'essere cosciente di essere in un sogno. Quindi poi tu puoi intervenire, certo, agisci comunque nel momento in cui la consapevolezza dello star sognando. Esatto. Sì, che porta però, quindi dici, anche a un'azione, a una possibilità di intervento dentro al sogno che ti stai... Sì, esatto. Sì. Ciao, ciao, dottor Freud. Ciao, dottor Freud. Ciao. Sì, ciao, va bene. Siete d'accordo? Un po' in parte sì. Ciao, signor Jung anche. Signor, anche lui dottore, credo lo chiamerei. No, così era giusto per fare un epiteto. Sì, comunque ciao anche a lui, perché comunque io penso questo: se sei cosciente all'interno di un sogno, no, come fai a rendertene conto? Quali sono i segnali che possono far scattare il campanello e dire: oddio, sono cosciente all'interno di questo sogno? In realtà, da quello che so, esistono, teoricamente, o sbaglio? Ne esistono tantissimi. Ma intanto, prima volevo chiedervi, ma avete esperienza di ciò diretta? Voi? Sì. Sì? Speravo fosse l'ultima domanda. No, per te lo sarà, per il nostro ospite indice è l'introduzione. No, per me... era una cosa che facevo molto quando ero più giovane, cioè di sognare, e durante il sogno, che fosse un incubo, che fosse una situazione piacevole, qualsiasi cosa, dirsi nel sogno: io sto sognando, quindi posso fare quello che voglio. Tendenzialmente si risolveva in due modi, cioè volare, iniziare a volare, andare a giro con grosse difficoltà, atterrare soprattutto. Tipico. Se no, scopare, fare sesso. Cioè, e le sensazioni che uno prova in queste attività sono uguali a quelle che prova nella vita sensibile? La cosa bella... No. Scusami se non ti ho fatto finire. Anche perché svolare uno non lo sa com'è. Forse è un deltaplano. La sensazione dei sensi sono amplificate. Ah! Cioè, le senti tutte. L'odore lo senti, senti il tatto, senti il calore. No, scusa, senti... hai degli orgasmi? Ora, scusa. Allora, nella letteratura scientifica... sono documentati orgasmi femminili veramente effettivamente avvenuti. Maschile, l'eiaculazione può succedere, perché nei sogni succede, cioè le eiaculazioni notturne, le polluzioni, esatto, quindi può succedere, nei sogni, legato ai sogni lucidi, è documentato, sì, su, al femminile, sì, sì, al femminile. Ma e le sensazioni del volare sono quelle che te pensi che proveresti davvero, tipo su un deltaplano facendo parapendio o qualcosa del sono genere? Sono quello che tu pensi che proveresti, in un certo senso, però... Ma quindi scusami se in calzo, ma puoi dire allora che a livello sensibile non è niente di diverso dal farlo davvero? Perché i tuoi sensi lo esperiscono allo stesso modo? È addirittura amplificato, infatti, in un certo senso. Detto, certo, cazzo. Wow, aspetta, la mazza la base. C'è della miscredenza. Io vorrei puntualizzare che molto probabilmente ciò che accade nel sogno è molto più reale di questa pantomimia che chiamiamo realtà. Allora, mentre chi ci scrive no, non vi abbiamo, vi abbiamo perso, speriamo tanto che abbiate risolto, a noi risulta che funziona tutto, dateci un segno se è così, speriamo intensamente. Ma che vuol dire, quindi, scusami, che è più intensa della che è più vera della realtà? Le dinamiche del sogno, la logica, o forse l'antilogica che domina l'ambiente onirico è un qualcosa di archetipico, di atavico. Avete mai provato a guardare un orologio mentre siete in un sogno? Beh, è una delle tecniche per capire se sei in un sogno, quello che dicevi prima. Pugnetto telematico. Bene, perché allora diamo anche delle dritte ai nostri ascoltatori che vogliono avventurarsi nel mondo dell'orinonautica. Durante i sogni vi potete accorgere che state sognando se intanto guardate gli orologi. Guardare l'orologio, perché... Ah, con ordine, con ordine. Con ordine. Con ordine. Sì, il maestro tende a... Sì, bravo, bravo. Dicevamo, eravamo partiti dalla tua domanda precedente. Mi stanno censurando. Esattamente. C'è da... Se li avevo mai fatti di sogni lucidi, era questa, giusto? Sì. Quindi sì, li facevo quando ero più giovane, ho smesso di farli. Ho avuto anche un rapporto strano con i sogni, cioè non me li ricordavo. Tipo la droga. Ah, tipo la droga, l'alcol, avere un ritmo sonnoveglia completamente scombussolato e tutte queste cose, dormire di giorno, insomma, lavorare di notte, tutte queste cose. Certamente. Però la grande voglia è tornata di ricordarsi i sogni e non solo, di rifare quei sogni lucidi che tanto facevo da piccolo e di cui sentivo di non aver sfruttato un po' la... E quindi, potenzialità. E quindi ho ricominciato leggendo un po', cercando un po', informandomi un po' per le tecniche. Bellissimo. Per farlo. E ho avuto, quando è stato? Una decina di giorni fa, il primo sogno lucido. Oh. Sono riuscito a farlo. Bellissimo è stato. Ma ce lo racconti in anteprima su Radio Wombat? Così, bello. Da subito vai. Un privilegio. Sì, partiamo dal tuo sogno lucido di 10 giorni fa che ti ha riportato nel mondo dell'orironautica. Allora, per favore, grande. Era una cosa molto... I suoni non me li ricordo. Mi ricordo non c'erano suoni strani, era tutto molto reale. Nel senso che ero in una città che seguivo un uomo da dietro, lo vedevo sempre da dietro, non gli ho mai visto la faccia. Lo seguivo per questa città scendendo sempre di più, però entrando dentro i negozi, andando a trovare le porte più... aprendo delle porte, seguendolo e scendendo sempre in giù, ok? Sempre scale in giù, passaggi in giù, sottopassaggi in giù, tutto in discesa praticamente. Al che a un certo punto ho fatto, no aspetta, c'è qualcosa che non torna. E lì ho attivato un test di realtà. Che è una cosa, quella che dicevi prima dell'orologio, per certo, esempio. Certo. Io ho fatto il mio. Il mio è un test che faccio con le mani, nel senso che mi guardo la mano, mi sono guardato la mano, e con la mano destra ho cercato di passare attraverso il palmo della mano sinistra. Con l'indice. Con l'indice, sì. Esatto. E cosa è successo? Ci sono passato attraverso. Sì! E quindi ho fatto, oh no, sono in un sogno, bro! Mi sono emozionato tantissimo e mi sono svegliato. No. Ah! Succede sempre così, maledizione. Però sei stato un grande. Quella perché è stato comunque, bellissimo. Certo, perché è comunque fare il test di realtà è molto importante. In questo senso, per chi volesse sperimentare l'onironautica e tutte le fantasticherie, questo è un aspetto da tenere molto di conto, perché di cosa si parla? Di una sorta di prova del 9. La prova del 9 del fatto che... stiamo effettivamente sognando, che effettivamente siamo in un sogno. Mm-hmm. E può essere legato sempre alle sensazioni che provi nei sogni, anche le sensazioni di gioia, di terrore, per questo che gli incubi sono incubi, sono anche molto più intensi spesso di trovarsi in situazioni spiacevoli nella vita reale, no? Mm. E no, mi sono già perso. No, ci raccontavi del tuo sogno, però dicevi prendiamola da lontano, prendiamola dall'inizio, invece che entrare nel merito del maestro che ti invitava a dire subito quali sono i simboli, i segni attraverso cui ti puoi accorgere, i modi per accorgersi che stai sognando. Ne abbiamo già raccontati un paio, abbiamo detto comunque che c'era quello degli orologi, perché le lancette... Sì, però quello degli orologi in realtà va un attimo spiegato meglio, secondo me. Cioè, quello degli orologi nel senso... se guardiamo, posso permettere? Prego, intanto ci dicono che funziona tutto, grandi, grazie. Viva. Vuol dire che va ricaricata la pagina. Se magari ci ascoltate ogni tanto, se si stoppa, ricaricate la pagina, refresciate se siete in streaming. Grazie. Dicevo, nel momento in cui andiamo a guardare l'orologio all'interno di un sogno, tendenzialmente, se stiamo sognando effettivamente, quell'orologio non deve avere le lancette. Perché? Perché il sogno non concepisce l'asse del tempo. No, ci abbiamo dei dubbi, mi sembra qua. Mi sa che è un po' il contrario, nel senso che gli orologi, come tutti i numeri, sono molto utili per entrare per capire se stai in un sogno lucido. Ma al contrario, cioè l'orologio con le lancette funziona, cioè più probabilmente funziona e riesce a mantenere un senso lì dentro, perché è più un fattore geometrico. Cioè se sei abituato a leggere l'orologio con le lancette, okay, tu vedendo un po' la forma delle lancette come nome stanno, vedi un po' l'ora. Mentre con i numeri, se te lo guardi, sposti un attimo gli occhi e lo riguardi, o anche se lo guardi costantemente, i numeri non tornano. Ma i numeri delle lancette o i numeri degli orologi digitali, tipo 60. I Casio? Tipo i Casio, esatto, digitali. I numeri digitali funzionano un po' peggio, nel senso che magari vedi 69.01 o magari non va avanti, o magari cambia continuamente il numero. Ma così faccio una domanda stupida, ma te puoi scegliere di avere un orologio nel sogno da guardare? Non consciamente, no. Cioè non è che in qualunque momento ti alzi il polso e ti scopri di avere un orologio? No, funziona così. No. Lo devi cercare dentro l'ambiente onirico, cioè dentro il sogno in cui sei, se vedi un orologio, se ti giri nella stanza, però è che questo implica già l'essere un po' avveduto, awakening, sì. Tipo, perché quali sono, quali sono le fasi antecedenti a questo grado di coscienza? Cosa c'è prima di arrivare a questo? Cioè come si arriva a fare il sogno lucido? Per esempio, accorgersi che uno sta lavorando dentro al sogno che può smanare. Io per esempio non mai ho avuto vagamente a che fare con... Ci sono modi, tutti possono farlo. Tendenzialmente fino ai 3 anni viene fatto quasi da quanto era il 40% più o meno. Un sacco, dai bambini viene fatto il sogno lucido. E i bambini sono fatti. Ma perché la fase... Se in qualche modo vi inquadrate una qualsiasi figura infantile, potrete sicuramente pensare a questo aspetto. Comunque sì. Si può anche tu puoi imparare a fare dei sogni lucidi, e ci sono un po' dei passaggi tendenzialmente, o comunque delle cose che lo facilitano molto. Il primo è dormire bene, nel senso in modo regolare, in modo regolare, impossibile. Sì, senza aver mangiato proprio prima, col buio, quelle cose solite, dormire abbastanza, anche perché poi i sogni che noi ci ricordiamo, che facciamo anche più narrativi, più sostanziosi, li facciamo nella fase REM, che è una fase che arriva dopo altre 4 fasi pre-REM del sonno, che sono proprio, cioè, proprio un ciclo che te tutte le volte ripercorri quando ti addormenti, e i sogni te li ricordi bene e li vivi bene nella fase REM, che è l'ultima fase, e quindi sì, più che altro c'è bisogno di dormire abbastanza, perché è proprio una questione di tempo, di tempistica. Bene, quindi la prima fase invecchiando la fase REM diminuisce sempre un po' di più. Io ho una domanda sempre sul discorso delle ancore, no? Del modo per vedere se sei nel sogno. Sì. Ma chiamasi test di realtà. Reality check. Esattamente. Ma funziona anche come in Inception, cioè la trottola, nel senso, se te ti fai un tuo modo personale, diciamo, ecco. Trovi il modo, puoi modo. Puoi trovarlo, volendo, domanda. Sì, lo puoi trovare, anzi lo devi un po' trovare. Lo devi trovare. Io ho trovato quello che dicevo prima, della mano, del trapassarsi della mano, che poi è una cosa molto usata. Anche perché le mani, insieme ai numeri e alle scritte anche, sono un buon modo per capire se sei in un sogno, nel senso che guardandoti le mani spesso saranno decisamente strane, che tipo hanno poche dita o troppe, sono di una forma strana, la pelle è tutta liscia, sono molto facilmente, cioè sono i dettagli strane. In generale, forse sì. Quelli su cui devi concentrarti, esatto. Forse esatto, sì. Ma e allora, dicevamo, delle fasi per avvicinarci all'onironautica. La prima, forse ovvia ma per niente, a quanto mi sembra di capire, è quella di dormire bene, dormire pienamente e riposati. Esatto. E poi? Poi ricordarsi i sogni, che sembra una cazzata ma in realtà è molto importante, nel senso che... Ciao, dottor Freud. ciao. Voi ve li ricordate? Pochissimo. Io ce ne ho alcuni emblematici. Ok, è quella, ma... Cioè, se te vai a letto stanotte. Non ricorrenti, nel senso emblematici me ne ricordo due o tre che ho fatto nella vita molto bene. E non so se sono davvero sogni lucidi, però mi ricordo che avevo una certa, come dire, volontà utilizzabile quasi all'interno del sogno, ma non saprei dire se fossero lucidi o meno, ecco. Forse erano solo molto vividi. Ci sono anche delle regole per definire sogno lucido, diciamo. Delle regole decise, cioè decise, messe nero su bianco. Ti prego, diccele. Ma aspetta, ma il tempo, ricordarseli come si può fare? Scrivendoli. Esatto, alla fine della fiera il modo migliore è diario dei sogni. Un diario. Cioè scriverseli, sì. Perché alcuni, se quelli più significativi o alcuni ti colpiscono particolarmente, magari te li ricordi. Però per diario ricordare tutti, cioè, te sogni, comunque se dormi 8 ore, almeno 4-5 sogni li fai, sicuramente. E tutte le notti, tutti. Tutti i mammiferi e gli uccelli, pare, cioè non pare. È provato che sognano. Cioè, io la cosa dei mammiferi, ho presente i cani che muovono le zampe durante il sogno, quasi sognassero di correre. Per mi vengono in mente così. Sognano. Gli alieni? Secondo me sì, certo. Sono ma mammiferi. Gli alieni hanno sfondato la parete. Ma sono mammiferi soprattutto? Beh, i rettiliani non direi. Certo. E poi ancora, quindi scriverseli con un diario dei sogni che uno magari tiene tipo accanto al codice. Esatto, lo tieni accanto e ti segni quello che ti ricordi quando ti svegli, che poi anche lì non è proprio... Ma poi li devi rileggere, ci devi ritornare su oppure li scrivi? Ci puoi tornare su, dipende sì anche... O li fai rileggere. Comunque sì, e poi comunque è divertente, nel senso che te li segni, è interessante comunque. Comunque sì, te li rileggi, ci sono delle tecniche poi per indurre il sogno lucido, per arrivare a fare il sogno lucido. Legate anche a questo, a rileggerle, a visualizzarsi dentro sogni già fatti, come se tu in quel sogno cosa avresti fatto se tu fossi stato lucido in quel sogno, cosa avresti fatto, come ti saresti mosso e figurandoti in quella situazione lì riesci, c'è una probabilità che tu possa riuscire a capire di essere un sogno lucido quando lo rifarai, quando ti si ripresenta. Ecco, siamo già in una fase in più, è quella sì, del questa è già, vero? Sì. Roba che ancora non ho affrontato, sinceramente. volare. Perché sono, principalmente sono due... No, andiamo per ordini, facciamo... Sì. Diario dei sogni, eravamo sempre lì, quindi sì, cioè, può sembrare una cavolata, ma in realtà è molto utile, nel senso che te li segni, anche da un te ti svegli, stai dormendo, ti svegli, cerchi prima di tutto di non muoverti tanto, e di non andare subito col pensiero alle cose del giorno, ma stare lì calmo e rilassato e chiederti cosa provavo o cosa sognavo, se te lo ricordi qualcosa, e scrivere anche una frase, anche una situazione, tipo, cazzo ne so, foresta, qualsiasi cosa, e poi tipo il ricollegando, setting, sì, esatto, e pensandoci durante la prima ora di sveglia, da quando sei sveglio, probabilmente anche solo scrivendo una frase, una parola, te lo potrai ricostruire in parte, piano piano, con calma. È una questione di allenamento, e una volta che tu te ne ricordi abbastanza, ha senso iniziare a provare i sogni lucidi, anche perché molto probabilmente se te non ti ricordi i sogni, se anche tu facessi un sogno lucido non te lo ricorderesti, cioè è proprio così, quindi... Una sorta di training, quindi. Sì, praticamente, è un abituarsi a pensare al sogno, beh, l'ho interpretato un po' così, è un abituarsi a pensare al sogno come una cosa attiva, in cui il tuo cervello deve essere attivo, ma lo è già molto. Cioè, nelle fasi REM, negli ultimi decenni, abbiamo capito che nelle fasi REM il cervello, contrariamente a quanto uno potesse pensare, e pensavamo, come umanità, il cervello durante il sonno, durante la fase REM, è iperattivo. È molto attivo, quasi pari a... Alla veglia. Esatto. Sì. Quasi pari a... Cioè, è come se tu stessi facendo un'attività intellettuale da sveglio. Leggendo, tipo, leggendo, sì, pensando, studiando, sì, sì, tutte queste, sì, cose qua. E la seconda? La seconda cosa? Delle attività propedeutiche che ci dicevi? Dopo il Diario dei Sogni? Sì, delle, vabbè, ultime due. Da... Sono i test di realtà, quindi abituarsi a fare un po' di test di realtà. Durante il giorno. Però scusami, te nel sogno non ti stai accorgendo che lo stai... Cioè, la dimensione è come se, è come se adesso lo provassi a fare ora, in questo momento, giusto? Infatti, sì, esatto. No, non passa comunque. Passa. C'ho una testimonianza, nel senso... Prova anche te. Io cosa devo fare? Far passare il dito. Non passa. Ma per farlo per bene, perché se lo fai così nel sogno non te ne accorgi. Per farlo per bene ti devi concentrare e dire: adesso io con questo dito, mm-hmm, passerò attraverso la mia mano. E crederci davvero. E poi lo fa. Ops, ho colpito il microfono. Lo fai. Ma quindi in qualche modo te ne stai già accorgendo che sei dentro un sogno, perché se no non saresti nemmeno, sì, propenso a fare il test di realtà. Sei, hai già degli elementi che ti hanno già fatto. Infatti, cioè, le tecniche per abituarsi a farlo, infatti, sono mnemoniche per lo più, quelle più semplici. Cioè, che sfruttano il tuo meccanismo del ricordo, della memoria, di tutte queste cose qua. Ma sfruttano anche la fisicità, quindi nel senso il toccarsi o fare un'azione fisica in qualche modo, giusto? Sì, un'azione che comprenda le leggi della fisica, che comprende, perché poi un sogno molto probabilmente non avranno effetto, perché le leggi della fisica non ci sono in un sogno. Ricordo di questo, appunto, proprio nel senso, venendo dietro questa tua affermazione, ricordo di questo sogno che raccontava Jodorowsky, dove lui cercava di in qualche modo capire, appunto, all'inizio se stesse sognando o meno, e lui aveva trovato il modo di farlo con il discorso del volo, però dice che più che un volo era una sorta di librarsi in qualche modo, sì, e lui lo faceva, diceva, mettendo praticamente immaginandosi di librare, come se una forza di un vento quasi, racconta, gli arrivasse, sì, ma da sotto le gambe proprio, cioè come se ti solleva prima le gambe e poi ti porta in aria praticamente steso sulla schiena in quella posizione lì. Lui dice in quella maniera riusciva in qualche modo a rendersi conto. Allora, diamo un attimo il tempo, direi, ai nostri ascoltatori di appuntarsi tutte queste tecniche preliminari all'ingresso nell'Olironautica. Mettiamo un pezzaccio, ce ne ho due. Cosa hai scelto? Ha scelto una italiana, mm-hmm, Fiorella Mannoia. Così. Tutti a tema, ovviamente. E un altro, i Nuage Dream. Mettiamo questo. Quest'ultimo. Vai, prego, prego. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure, you see. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. Finally, you would dream where you are now. If you awaken from this illusion and you understand that black implies white, self implies other, life implies death, you can feel yourself not as a stranger in the world, not as something here on probation, not as something that has arrived here by fluke, but you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental. What you are basically, deep, deep down, far, far in, is simply the fabric and structure of existence itself. State volando con noi? Sì, sembra di sì, perché ci scrivete anche super pezzone. Librati leggeri da una brezza. Con la voce di Alan Watts. Grandi, che bello, apprezzata. Speriamo apprezzate anche la prossima. Rimanete con noi, fra l'altro, perché dopo questo momento della seconda parte della puntata sui sogni, andiamo un po' a fondo sull'onironautica, abbiamo una scoppiettante parte finale, riprendiamo dopo l'intervallo assieme al Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche la ormai famosa e celeberrima rubrica sulle razze, anche se dobbiamo da oggi in poi iniziare a chiamarle specie, ci hanno spiegato i professori aliene, col maestro. Maestro, di cosa parleremo, giusto per solleticare? Questa è una specie che ho scelto in onore appunto del tema di questa puntata, anche non tanto perché appaia nei sogni quanto perché ha tutta l'aria di esserlo. Non anticipiamo altro, perché non potremmo anticipare meglio che così. Rimaniamo quindi andiamo un po' a fondo dell'onironautica. Abbiamo detto come preliminarmente ci si può avvicinare al sogno lucido e ora insomma ti incalzerei ad andare. Andiamo oltre. Oltre. Comunque sì, prima parlavamo, no, dei test di realtà, che quindi, per riassumere, sono importanti da fare durante il giorno, che sono azioni semplici come guardare l'orologio, guardare i numeri, respirare, qualsiasi cosa, stare attenti a quello durante che fai durante la veglia, e fare delle azioni molto semplici che possono essere appunto saltare, azioni fisiche, in modo da poi abituarsi e aumentare le probabilità di farle nel sogno. Tu non ti rendi conto di fare di essere sveglio in un sogno normale. Quindi è una sorta però di le azioni le fai, un meccanismo mnemonico. Di imitazione, esatto. Quasi una sorta di meccanismo di imitazione con che il sogno quindi apprende dalla veglia in qualche modo. Esattamente. E in questo modo entri in un sogno essendo già in un sogno. Poi ci sono anche delle tecniche per arrivarci al sogno, che sono appunto le tecniche di transizione, che hanno dei nomi fighissimi, fra l'altro. Vai, vai, deliziaci. Wild, Dailed, Mild, la mia preferita, Dild. Cosa? Dild è quella che pratico. Ah. Ma in cosa consiste? Consiste esattamente, molto legata ai test di realtà. Dild sta per Dream Induced Lucid Dream. Ah, cioè indotto. Sogno indotto da un sogno. Da un sogno lucido indotto da un sogno. Cioè che entri... Cioè, che il mio unico modo per ora che ho trovato per entrare in sogni lucidi è entrarci da un sogno, e quindi non poter fare direttamente un sogno lucido, che sarebbe un mild, sarebbe un wild. Un wild. Yeah. Cioè, no, ma affrontiamoli uno per uno, dai. Wild che cosa vuol dire? Fare direttamente un sogno lucido, addormentarsi con coscienza di fare un sogno lucido, tipo. Esattamente. Allenarsi, che è molto più invasiva anche come tecnica, è molto meno leggera, diciamo. E sei vero maestro lì. Devi essere più bravo, sì. Ci si consiglia, gli aeronauti esperti consigliano di partire dalle dild. Cioè di arrivarci, sì. Sì. Ci piace partire. Mentre dalle gli approcci preliminari sono quelli che da un sogno al sogno lucido, che vuol dire? Cioè, qual è il passaggio? In cosa consiste? Nel rendersi conto di star sognando. Ah, tramite uno di questi trucchetti che abitui la tua mente a fare anche durante la veglia, durante la vita di tutti i giorni. Il passo in più a quel punto è praticare cose dentro, dopo essersene accorti, dico, sì. Sì, diciamo che a quel punto tendenzialmente ti rendi conto che sei in un sogno, che non ti puoi far niente e che puoi fare tutto quello che vuoi. Quindi la cosa principale poi diventa stabilizzare volare. Il sogno. Esatto, volare. Volare viene subito, è molto divertente. È una delle cose più semplici, cioè più immediate, che ti verranno da fare probabilmente. Ti porto fuori al discorso e ti faccio una domanda. No, vai. Ma non è così, non c'è un certo rischio anche di perderci, sì, quasi in una forma di dipendenza, arrivando al primo wild, insomma, allo stadio in cui te ti puoi indurre un sogno lucido nel quale mi dici le sensazioni che provi sono pure amplificate rispetto alla realtà. Non devi nemmeno accorgertene dentro un sogno per entrare dentro un sogno lucido, ma lo fai subito. Sei un maestro dell'aeronautica, rischi di perderti il mondo reale a favore del mondo del sogno, quasi. Boh, in due buddisti avrebbero da ridire. Loro lo fanno, e lo fanno coscientemente da non so quanti centinaia di anni, e lo fanno coscientemente, nel senso, pensano, esiste lo yoga del sogno, che è la pratica dello yoga del Tibet, dei monaci tibetani, e lo fanno proprio... anche perché sono convinti che la realtà sia un sogno, è un'illusione. Quindi una simulazione. Bene, io c'ho una sola e breve domanda. E poi cosa vuoi sapere? Ancora come si arriva alla Io volevo sapere alla anche gli altri wild, mild. Allora sì, ne ho puntati, ce ne sono tantissimi in realtà. Poi magari li approfondiremo in un'altra puntata o in qualcos'altro. Sì. Fra l'altro ho scoperto che avevi anche scelto due pezzi, e invece la prossima volta, quindi prossima senza volta. Certo. Magari sarò anche più preparato con un discorso organico, storico, scientifico sull'argomento, che è molto interessante, ma non ho preparato colpevolmente. il livello è altissimo rispetto alla media, posso assicurare. Sì, che poi siamo in radio, non lo potete vedere, però siamo tutti e tre in piedi davanti al microfono, come se stessimo facendo stand-up comedy, sembra, sì, un concerto. Ci manca uno sgabello, forse una camicia nera. Siamo una boy band. Siamo in una boy band. Dicevamo, quindi Wild l'abbiamo capito, Dild l'abbiamo capito. No, Wild, esatto. Sì. Mild ci manca. Mild è induzione mnemonica di sogni lucidi. Cioè, induzione mnemonica. Sì. Cioè il figurarsi è un po' una cosa, una via di mezzo fra l'entrare in un sogno da un sogno e l'entrare da sveglio in un sogno lucido. Anche mild suona un po' mild. Nel mezzo, no? Mild. Mm-hmm, interessante. E, sì, si tratta di riprendere, si ricollega un po' al diario dei sogni, cioè lì è utile rileggerseli, nel senso che te ti prendi un sogno che già conosci e ti immagini di essere in quel sogno lucido e prima di addormentarti pensi a quello, visualizzi quello, una sorta un po' di meditazione quasi. Fantastico. Esatto. Molto mnemonico, fantastico. Appunto, quindi in quel senso. Sì, è un po' una via di mezzo, sì, perché poi ti induci... Un'autosuggestione, sì, una forma, sì. Sì. Autosuggestione è un trucco per entrarci, certo. Per permetterti di probabilmente di riuscire a capire di essere, di domandarti se sei in un sogno. Al momento in cui te lo domandi, come dicevi, già un po' lo sai e parti. E quindi queste sono le tre modalità. Sono tre delle infinite modalità. Delle infinite. Mm-hmm. Ce ne saranno anche di non mappate, probabilmente. Sì, ma anche molto personali sono spesso. E un'altra buffa è la Dailed, che è nella famiglia delle tecniche di transizione, in cui tu giochi con i risvegli notturni che hai, nel senso che quelli ce li abbiamo più o meno tutti, più o meno consapevoli anche quelli, quindi anche lì devi porre attenzione a quando ti svegli, e praticamente svegliarsi in quei momenti, quando tipo, non so, ti svegli un attimo e ti rigiri per trovare una posizione più comoda, e rimanere coscienti di essere... di essersi appena svegliati, ma di star prima sognando e di rimanere, perché in quella fase lì, in quei 1 minuto, 30 secondi, 5 secondi in cui sei addormentato, sei ancora in fase REM e quindi puoi rientrare con più consapevolezza nel sogno e quindi accoggerti più facilmente e indurti un sogno lucido. Ok. Noi consigliamo comunque ai giovani onironauti di... agli amatori, insomma, di approcciarsi in modo graduale, giusto? Sì, sì, anche perché poi, cioè, è una gioia, nel senso, non è che non ci ricavi niente di monetizzabile, diciamo, no? Se non esperienze da sogno. Quindi va fatto con calma e senza odiarlo, nel senso, se ti metti lì a fare test di realtà tutti i giorni, tutto il giorno, e ci pensi continuamente, funziona molto peggio. Va bene, ho una domanda. No, scusami, c'è qualcosa che sto interrompendo. No, prego, domanda. Parlavo dell'argomento della puntata di oggi, ieri sera, con un mio amico. Mi raccontava che gli capitava spesso di fare sogni lucidi, e quando me ne ha raccontato uno, mi ha colpito la scelta dei dettagli che ha avuto. Ecco, nel momento in cui tu fai una pratica come quella che hai descritto del diario, del cercare di rientrare in un sogno, anche soltanto... la selezione di una serie di dettagli rispetto al contesto, ovviamente irrappresentabile per intero su carta, no? Di un sogno, cioè una luce, dei colori, una serie di sensazioni, convivere, no? E come si fa a circoscrivere in qualche modo, rappresentare in parole. Quella scelta non può indurre in qualche modo una tua inclinazione al nuovo sogno, cioè non può essere condizionante in realtà, cioè non può essere un ostacolo alla libertà di un nuovo sogno, approcciarsi rispetto al tuo ricordo sensibile di un sogno che era completo. Non so se mi... Dici il cercare di rientrare, di riprendere un sogno? Sì, soprattutto perché te stai cercando di riprendere magari un aspetto particolare di quel sogno, non davvero quel sogno, quell'insieme di sensazioni e di... Te ricrei quella sensazione, cioè i sogni sono questo, cioè sono ricreazioni, tu ricrei delle sensazioni, non è che ricrei delle cose specifiche o delle... cioè tu non è storica, non segui le leggi del... non è storicizzabile un sogno, nel senso, non è storico, nel senso che... non sarà avviene mai... in un'altra dimensione, tipo. Sì, cioè te riprendi il sogno, rientri in un sogno che avevi già fatto, non è lo stesso sogno, certo. È una cosa che lo ricorda, è un'altra situazione, è una cosa che per te, poi magari quando ti svegli lo vedi. Ci sei entrato attraverso, non lo so, lo schermo di una televisione a tubo catodico, probabilmente. Chi lo sa. Cioè, il discorso del sogno nel sogno, anche lì ci sono espedienti quasi direi scenografici per che il sogno e quindi la nostra mente si inventa per passare da un sogno a un altro. Va bene, allora io un paio di questioni così, però finali da stuzzicanti vorrei. Ma questione conscio-inconscio, che cos'è questo mondo del sogno? È il regno dell'inconscio, è il regno dei simboli, è qualcosa che parla al tuo conscio e che dobbiamo interpretare noi da lucidi, perché questo mondo in cui possiamo a quanto pare anche agire, insomma, far cose, è in realtà un mondo simbolico che ci dà delle indicazioni nella nostra vita senziente? O è qualcosa di diverso? Beh, su te stesso sicuramente, e su come percepisci tutto, il mondo e te stesso, sì. Per questo me lo do per assodato. Poi, maestro? Per me i sogni sono il teatro dell'inconscio. Una specie di scenografia? Scenografia, sceneggiatura e sceneggiato, tutto insieme. Ecco. E l'inconscio che cos'è invece? È il primo attore, tipo? No, così a cazzo. No, l'inconscio è il regista. Esattamente, l'inconscio è il regista. Sì, sì. E il tuo conscio è un attore? No, neanche. Il pubblico? No, il pubblico, il bigliettaio, tutto il resto, è tutto il resto. La quindi maschera. È un po' una via di mezzo, non è totalmente inconscio, no, però non essere totalmente inconscio c'è da dire, no, che, in realtà se... forse secondo me il conscio è quello che non va a teatro. Ma sono delle indicazioni alla vita sensibile queste dell'inconscio nel sogno, o sono cose casuali? Cioè è un mondo del boh, oppure è un mondo del ascolta bene cosa sta succedendo qua, che almeno capisci come ti devi muovere di là. Io penso che quando si è lucido non è più un discorso magari come potrebbe essere, non so, il sogno profetico, no? Se hai già sentito parlare del sogno che ti profetizza il futuro, per non parlare del sogno che parla del passato. Sogno rivelatore. Il sogno rivelatore, premonitore, quindi. Se però è lucido, credo che perda questa funzione, credo. Sì. Oppure non l'ha mai avuta nemmeno l'altro sogno questa funzione? No, questa funzione l'ha avuta, sì, secondo me, o comunque gliel'abbiamo data, quindi no, gliel'abbiamo certo. Ora io non so, sono un profano, sì, gliel'abbiamo senz'altro data, il Novecento si è sdato su, mi viene in mente così, ma certo la questione del sogno lucido smentisce un po' ciò che sto per dire, quindi. Ma non potrebbero, lo stesso la formula, essere degli impulsi nervosi casuali che avvengono di notte quando stai dormendo e è il sistema nervoso che sta, è come una libreria che si sta riordinando, a cazzo. E semplicemente te quando ti svegli decidi di isolare dei momenti, di dare a quelli un senso, una chiave per decifrarli e far sì che ti dicano qualcosa, ma in realtà non sta succedendo niente tranne che immagini casuali. No, tu, nel senso, tu puoi anche interagire con qualcuno mentre dormi, sei nella fase REM, sei in un sogno lucido, tu tramite il movimento degli occhi, REM è proprio, vuol dire quello letteralmente, il nome, cioè la fase REM è quando gli occhi, le pupille si muovono sotto le nostre palpebre chiuse, no? E in un sogno lucido si muovono in concordanza con come li muovi, come muovi i tuoi occhi onirici, cioè gli occhi nel tuo sogno. E quindi è stato fatto negli anni, nel 93, un esperimento su queste cose qua, cioè di comunicazione, potevi comunicare tramite il movimento degli occhi che eri in un sogno lucido e che stavi sognando lucidamente in quel momento, mentre c'era il poveretto lì alla macchinetta a aspettare che tu mandasti il segnale. Quindi cioè, non è inconscio, quando sei in un sogno lucido diminuisci la parte di inconscio e la leggi di più con la tua parte conscia, col tuo di tutti i giorni, per dirla male. Una domanda, ma se il movimento degli occhi riusciva a comunicare quindi in qualche modo con i, non so, i ricercatori, chi c'era dall'altro lato, in questo senso si può dire che il corpo è più legato all'inconscio a livello comunicativo, cioè nel senso l'inconscio per parlare, per esprimersi, utilizza forse di più il linguaggio del corpo che il linguaggio verbale, per esempio. Beh, sì, perché non hai accesso, cioè mentre dormi tutti i tuoi muscoli, non puoi parlare, ecco. No, dico cioè, anche comunque... nella veglia. Anche nella veglia? Anche nella veglia. Sì, ti invita a speculazioni di qualunque tipo il maestro. Interessante. Ci scriverò un essay. un petit pamphlet. Caro maestro, qualche domanda invece tu hai da porre o qualche verità da rivelare? Qualcosa del genere? I sogni sono sicuramente rivelatori in questo senso. Io di sogni che ricordo importanti, ce ne sono penso due o tre, non di più. Quello che ricordo molto bene, che come dire è rimasto impresso a livello fotografico quasi, è lo sfalsamento dei piani e la possibilità di ribaltare in qualche modo le leggi della fisica proprio. E quasi a livello di non saprei dire come, piano cartesiano forse, o geometria non euclidea, una cosa del genere. Sì, esatto, geometria non euclidea forse è la definizione migliore, perché mi ricordo precisamente l'immagine di questa luna che io guardavo davanti a me, una falce di luna, che ad un certo punto il piano si sfalsa e viene praticamente, mi scorre sotto quella superficie e diventa la vela di una nave che invece è sul mare. Facile se il cielo e il mare hanno lo stesso colore fra il resto. Sì, trucchetto, sì, da effetti speciali di Hollywood. E i nostri sogni sono una roba del genere sofisticatissima, però sono la realtà virtuale perfetta, nel senso tutta questa grande ricerca, no, della realtà virtuale, di mondi, del meta, tutto il metaverso. Ce l'abbiamo dentro. Eh sì, il nostro cervello. Molto bene, quindi adesso un pezzaccio, ci rivediamo fra 3 minuti, 3 e mezzo, per la rubrica sulle razze aliene, l'ultima parte di questa puntata con un grande lago, Maestro Ottani, viva Radio Wombat! Sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da bere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Qual è il tuo nome? Questa è un'informazione che non ti posso dare. Da quanto tempo esisti? Da molto tempo. Da dove vieni? Da lontano. Hai chiesto il permesso al tuo contenitore per entrare dentro di lui? Sì. Quando? Quando era piccolo. E capiva? No. Allora il permesso in realtà non glielo hai mai chiesto. La cosa non rispondeva, le si faceva notare che aveva sbagliato molte risposte e che il suo comportamento era quello di un vero parassita. La cosa luminosa allora veniva fuori con la sua vera personalità, ammetteva di aver mentito, ma continuava a tentare di convincere delle sue ragioni, con l'uso di una forbita dialettica e di una dimessa aggressività. La dialettica umana si rivelava però sempre di gran lunga superiore, ed il Lux non poteva che capitolare. Da dove vieni? Non te la posso dire. Perché? Tanto è un'informazione di cui non mi posso servire. Lo so. Potrei dirti un nome qualsiasi e tu saresti contento lo stesso. Allora è qualcun altro che non deve sapere? Gli altri non devono sapere. Gli altri che vengono qui non devono sapere certe cose. Ti riferisci agli altri alieni? Certo. Ma come? Non collaboravate tra di voi? Loro credono questo. Alcune cose le sanno, ma non devono sapere tutto. Se lo dico a te, poi lo sanno loro. Perché guardano nella testa del contenitore la prossima volta che lo prendono. Entri nel corpo di tutti gli umani? No! Solo in quelli che hanno quella cosa che voi chiamate anima. Perché? Per la nostra evoluzione. Oppure perché succhiate la loro energia? Anche. Allora siete parassiti. Questo è un tuo punto di vista. Cosa ci guadagna l'uomo dalla vostra presenza? Conoscenza. Sei sicuro di quello che dici? Dici le bugie qualche volta? Sì, se necessario. Allora, chi mi dice che mi stai raccontando la verità? Stupendo, stupendo. Cosa abbiamo sentito? Abbiamo appena sentito la conversazione tra un ipnotista e quelli che abbiamo preso a chiamare come i Lux o esseri di luce. Perché, caro maestro, oggi stiamo parlando... E l'ho fatto in onore del tema di questa sì. puntata, i sogni in qualche modo lucidi soprattutto, mi ricordano la luce e il traslucido e tutto quello che c'è di luccicante e brillantoso, come gioielli e detergenti per lavastoviglie. Lavastoviglie. Lavastoviglie. La tipo, luccicanza. Tipo i navigli. Sì, al tramonto, ecco, qualcosa del genere. E quindi questa è dedicata tutta ai sogni lucidi. E i Lux, o esseri di luce, per l'appunto, facciamo un identikit, un breve identikit. Sì. Il colore di questo essere è luminoso come la luce. Assume diverse tonalità, dal giallo al rosso. Viene descritto come iridescente. Iridescente. Gli occhi non sono visibili all'interno della massa luminosa. Sono generalmente di piccola statura. Il numero di dita non si distingue all'interno della massa luminosa. La forma del cranio non si distingue nella massa luminosa. Sono esseri, sappiamo, dotati di spirito, mente, ma non di anima. Allora, in questo senso, alle volte sono stati anche visti come esseri molto trasparenti in qualche modo e con degli occhi che possono ricordare quelli dei grigi in realtà, quindi grandi a mandorla e neri, però molto più sbiaditi sempre. Piccola nota di colore. Nota di colore. In questo senso parassitano l'ospite umano in qualche modo con delle memorie aliene passive e delle memorie aliene attive che abbiamo già incontrato in precedenza, nelle puntate precedenti, e questo lo fanno attaccandosi a una parte molto precisa, cioè allo spirito dell'essere umano, in quanto si dice che siano i creatori delle religioni e del senso di colpa. E in qualche modo hanno trovato il modo di controllarci attraverso queste forme di controllo. Ecco. Ci controllano per... Cosa ne prendono loro? O meglio, se posso, qual è quindi la loro agenda? La loro agenda in questo senso è quella stessa degli Orange che abbiamo oggi incontrato in altre puntate, e anche quella di degli esseri extradimensionali a sedita. Hanno la stessa identica agenda, vogliono la nostra anima e la vogliono per ottenere l'immortalità. La necessitano. In questo senso sono i Lux, sono più subdoli. Molto spesso non vengono fuori all'interno di una seduta di ipnosi, in quanto si legano a questa parte più spirituale dell'essere umano. E però alle volte, nel momento in cui si è cercato di interrogare anima attraverso la seduta ipnotica, è venuto piuttosto fuori il Lux, che fingeva di essere anima. Allora, per questi termini, anima, le tre coordinate a cui prima accennato, rimando alla puntata del professore, giusto maestro, di cui abbiamo... Esattamente, la puntata di cui abbiamo parlato, in cui abbiamo parlato del professor Malanga e di quello che è, insomma, di quella che è la sua poetica ed estetica. Allora, caro maestro, però rispetto alle altre specie aliene, quali sono i rapporti? I rapporti specie in questo senso sono molto, come dire, lavorano a stretto contatto con i sauroidi e quindi i rettiliani in qualche modo, ma si sentono superiori ad essi e credono di averli in pugno. Questo sentimento è reciproco, a quanto pare, quindi è una strana politica di alleanza e servilismo, non so, è reciproca. Rispetto ai Sì, sì. Cosa stai per dire? Anch'io ce n'avevo una, ma me la trattengo. No, no, io no. Ma hanno loro. Da dove vengono? Da che galassia? Da dove non si sa? Hanno un pianeta base? Allora, una in questo senso, probabilmente si pensa che appartengano a questo universo, ma a un'altra dimensione. Ah. O comunque che vibrino ad una frequenza tale da non necessitare di per forza, ma sì, alla bisogna di stare in un corpo. E quindi di un luogo, diciamo, in senso lato, sì. Sì, un corpo nel senso, cioè, vengono spesso descritti come delle matrici di punti di luce, no? Come dei... No, più che delle matrici punti di luce, una figura umanoide, lucente, iridescente, bambina. Spesso le apparizioni mariane, sicuramente quella dell'apparizione di Fatima, del terzo segreto, sicuramente si tratta di un lux. Sicuramente? Sicuramente. Allora, c'è chi ci scrive che è d'accordissimo, forse di tutto ciò, il maestro annuisce, però in realtà di tutto ciò che hai detto, no, forse sì, forse è d'accordo in generale su tutto ciò che hai detto, forse su un punto specifico. Non posso che essere d'accordo. La tua volta mi sembra molto legittimo da parte tua, maestro. Ti voglio fare una domanda però, perché ti sei dimenticato della mia parte preferita di questa rubrica, ovvero ti ricordi qual è? Lo voglio annunciare. No, non mi interessano i tuoi interessi. Mi interessa molto perché alla fine c'era questo momento centrale in cui tu dicevi curiosità. Mi piaceva moltissimo. Beh, ne ho detto due o tre di curiosità sui Lux, quindi. Però le avresti dovute raccogliere in un momento finale. Non avendolo fatto, ti chiedo un'altra curiosità sui Lux. Ok, chiedo 5 secondi per raccogliermi. Sì, certo, abbiamo una base bellissima. Mentre ci precisano che sono d'accordo con te a prescindere, intanto sul pad. I Lux hanno una particolarità, curiosità. Nel momento in cui la loro memoria aliena attiva o la loro memoria aliena passiva viene fuori all'interno di un'ipnosi regressiva, la frequenza della voce è piuttosto acuta, siamo sui 400-500 Hz più o meno. Quindi è come se parlassero un po' così. E sono piuttosto aggressivi e si incazzano. Fanno anche queste robe. Questo è quello che dice Malanga. E esistono anche dei video su YouTube che testimoniano alcune ipnosi regressive con questo tipo di risultato. L'apparizione di un Lux. All'interno dell'addotto, chiaramente, non al di fuori del corpo. E questo è molto divertente da vedere, ve lo assicuro. Curiosità. E caro maestro, come sempre, in conclusione della rubrica aliena, io ti faccio la fatidica domanda. Voto ai Lux. Per aver inventato le religioni e il senso di colpa, si meritano un bel 3,5. Caro Grande Lago, caro maestro, cari ascoltatori, è stata una puntata bellissima, grazie davvero, grazie a chi ci ha aiutato a far sì che questa andasse in diretta nonostante tutti gli incidenti tecnici e l'emozione dei primi minuti. Grazie a chi ha partecipato. Come sempre ricordiamo che i nostri contatti sono postawombat@insiberia.net, tante nuove trasmissioni sulla pagina del Wombato. Approfondisci la questione fantascientifica e non solo, utopica e onirica, anche la nuovissima trasmissione Alle Porte di Tannhauser, anche se sicuramente lo sto pronunciando male. Comunque tante nuove puntate Ha detto bene. Sì? Urrà! Per me! Sì? Vi sognerò tutte e tutti stanotte. Sarà un sogno lucido, caro maestro? Sarà uno wild? Com'era? Wild. Sarà sicuramente wild. Un dild. Buonanotte a tutti su Radio Wombat. Ci sentiamo fra due mercoledì. Grande Lago, è stato bellissimo. Alla prossima. Ti riaspettiamo. Maestro, ciao. Miau. La nostra critica cominciò come comincia ogni critica, con il dubbio. Il dubbio divenne la nostra narrazione. Eravamo alla ricerca di un nuovo racconto, il nostro. Ci aggrappammo a un nuovo passato, spinti dal sospetto che il linguaggio comune non potesse narrarlo. Il nostro passato appariva congelato e remoto, e ogni nostro gesto, ogni accento, esprimeva la negazione del vecchio mondo e l'anelito a uno nuovo. Il nostro modo di vivere creò una situazione nuova, fatta di esuberanza e amicizia. La realtà di una microsocietà sovversiva nel cuore di una società che la ignorava. L'arte non era il fine, ma il pretesto e il metodo per individuare il nostro ritmo specifico e le possibilità nascoste del nostro tempo. La scoperta di una vera comunicazione, di questo si trattava, o almeno la ricerca di tale comunicazione. L'avventura di trovarla e di perderla. Noi insoddisfatti continuammo però a cercare, riempendo i silenzi di desideri, di paure, di fantasie, sospinti dal pensiero che, per quanto vuoto sembrasse il mondo, per quanto degradato e usurato ci apparisse il mondo, sapevamo che tutto era ancora possibile e che, in circostanze appropriate, un nuovo mondo era tanto probabile quanto uno vecchio.